Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 10 persone arrestate e altre 29 denunciate in stato di libertà. È il primo bilancio dell'operazione Fumo del Vesuvio, condotta dai carabinieri di Trieste e avviata in seguito a una serie di truffe perpetrate ai danni di anziani. Circa 150.000 gli euro di proventi finora recuperati. Nella giornata mondiale dell'acqua a Bibione, alla foce del Tagliamento, si è parlato di cambiamento climatico in un'iniziativa organizzata da Legambiente. Lunga fila di persone a Palazzo Antonini in Mangilli del Torso, a Udine, per visitare una delle 20 meraviglie aperte in regione tra oggi e domani in occasione delle giornate FAI di primavera. E al termine di un importante intervento di restauro e riqualificazione, apre nel pomeriggio al pubblico a Gorizia il rinnovato parco Coronini-Cronberg. A Sesto Arreghena sono iniziati i lavori di un convegno dedicato al tema dell'autismo, in particolare a quelle persone che sono scomparse senza dare più notizie di sé. Al Verdi di Trieste, la prima dell'olandese Volante di Wagner, pieno successo per cantanti e strumentisti, ma il nuovo allestimento firmato dal regista tedesco Henning Brockhaus non ha convinto il pubblico. Buon pomeriggio, sono le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli e ancora un buongiorno da Giorgio Berzi e Daniele Lettici che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 22 marzo che apriamo con la cronaca. Come avete sentito nei titoli, infatti 10 le persone arrestate e altre 29 denunciate in stato di libertà ed è questo il primo bilancio dell'operazione Fumo del Vesuvio condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste e avviata in seguito a una serie di truffe perpetrate di recente ai danni di anziani sul territorio, ai quali è stato fatto credere da un sedicente avvocato maresciallo dei carabinieri che un figlio o nipote avesse avuto un incidente. Le indagini, che sono coordinate dalla Procura di Trieste e sono tuttora in corso, erano iniziate nell'estate del 2023. Un'ottantina i fascicoli finora aperti, mentre le truffe scoperte sono per ora 38, circa 150.000 gli euro di proventi recuperati finora. Ah, devo fare l'inventario a dire questa mi è un po' impossibile, eh? Presta le cose che a disposizione me lo pubblico, sono qui a telefono. Bon, le fedi. Ho due anelli, uno che era di fidanzamento. L'uomo che parla è un finto maresciallo dei carabinieri. La donna, purtroppo, è una vittima autentica. Un'anziana triestina che ha pagato le conseguenze, come decine di altri nel capoluogo e non solo, della cosiddetta truffa del finto incidente. Il raggiro consiste nel minacciare ingiuste conseguenze per un grave incidente stradale asseritamente causato da un congiunto, a meno di non sanare immediatamente il danno alla parte lesa con denaro e preziosi. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Trieste, diretti dalla Procura della Repubblica, sono però riusciti a sferrare un duro colpo alla banda di truffatori, arrestandone 10 e denunciandone 29. Alcuni, arrestati in flagranza di reato, sono stati già processati per direttissima e condannati. Non solo, i militari sono riusciti a recuperare gioielli e contanti per 150.000 euro e a restituirli ai proprietari. L'attività investigativa è cominciata nell'estate del 2023 ed è tuttora in corso. Procure e Arma hanno deciso di comunicarne i progressi per mettere in guardia la cittadinanza. Tutte sopra gli 80 anni di età le vittime. Alcune di loro non solo non hanno denunciato, ma non hanno neanche capito di essere state imbrogliate e lo hanno appreso solo quando i carabinieri, quelli veri, hanno riconsegnato loro i soldi e i gioielli. Questa truffa è un'aggressione alla sfera personale delle persone più fragili che porta al tracollo psicologico delle vittime, ha sottolineato il procuratore capo Federico Frezza. Vogliamo far sapere che procure e investigatori sono al fianco e al servizio degli anziani. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, nei giorni scorsi i carabinieri di Monfalcone in collaborazione con la polizia locale hanno controllato 23 appartamenti e identificato 107 cittadini stranieri. Gli accertamenti hanno portato all'avvio di 5 pratiche per la cancellazione anagrafica di altrettanti soggetti risultati irreperibili, anche se ancora ufficialmente residenti. Inoltre sono state elevate 11 sanzioni amministrative nei confronti di inquilini in esubero rispetto a quanto dichiarato. La UIL FPL del Friuli Venezia Giulia ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Udine Udine per denunciare la diffusione illecita avvenuta poco tempo fa di una lista interna del comando della polizia locale del capoluogo friulano, una lista denominata informalmente Multometro. Tale documento, destinato esclusivamente ad uso amministrativo interno, afferma il sindacato, è stato diffuso impropriamente sui media, esponendo a gravi rischi gli agenti, alcuni dei quali, si legge, hanno ricevuto minacce e offese sia sui social media che nella quotidianità lavorativa. L'esposto presentato alla magistratura evidenzia possibili violazioni di legge, tra cui la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, la diffamazione e la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. La UIL FPL, conclude la nota, chiede dunque che vengano individuati i responsabili della fuga di informazioni e adottate misure idonee a tutelare la professionalità e l'incolumità degli agenti coinvolti. Si celebra oggi la giornata mondiale dell'acqua, un bene importantissimo che anche in Friuli Venezia Giulia continua a essere sprecato troppo, in particolare a causa della dispersione idrica. E su questo tema nel pomeriggio alle 16.30 alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele il Patto per l'Autonomia organizzerà un incontro pubblico per promuovere la tutela del tagliamento, cui interverranno tra gli altri gli scrittori Tullio Avoledo e Paolo Patui e musicisti Lino Straulino e Guido Carrara. E questa mattina alla Foce del Tagliamento a Bibione si è parlato del ciclo dell'acqua e di cambiamento climatico in una iniziativa organizzata da Legambiente. Inizia dalla Foce del Tagliamento, lato Veneto di Bibione, il ciclo di 7 tappe per conoscere meglio il grande fiume. La serie di escursioni comincia proprio nella giornata mondiale dell'acqua, risorsa preziosa la cui disponibilità è influenzata dai cambiamenti climatici. E allora la referente dell'Legambiente, del gruppo Acqua, Alessandra Testa, Legambiente che è uno degli soggetti che hanno organizzato e partecipano a questa iniziativa, chiediamo come il cambiamento climatico è influenzato dall'acqua e come l'acqua influenza il cambiamento climatico. Allora, il ciclo dell'acqua ovviamente soffre con intensificazioni del riscaldamento globale, ma il ciclo dell'acqua può contribuire a mitigare il riscaldamento globale se sappiamo modificare in positivo quello che è un eccessivo uso dell'acqua, quello che è la capacità di riusare l'acqua e di rimpinguare le falde attraverso anche tecniche di recupero dell'acqua in falda. Questo può portare un effettivo contributo di contrasto al cambiamento climatico. Oggi siamo qui anche perché inizia questo percorso che vuole contribuire a contrastare quelli che sono i progetti sul tagliamento attraverso appunto un percorso di conoscenze degli impatti che l'uomo ha lungo l'asta del fiume. Il punto di vista sarà sempre quello di una riqualificazione fluviale e del rispetto dell'adesione a quella che è la nuova legge europea del ripristino della natura. Bibione, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:38, il tempo, cielo coperto su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 11 gradi, a Pordenone 10,5, a Gorizia 10, a Udine 9,5, a Tarvisio 7, a Tolmezzo 6, a Forni di Sopra 4,5, a Piancavallo 3,5, a Sappada 2,5, sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 0 gradi, sulla costa a grado 11, a Lignano 10 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio avremo cielo coperto con piogge sparse, deboli o moderate, quota neve sui 1500 metri circa, verso sera precipitazioni meno probabili, domani nella notte e al mattino piogge abbondanti sui monti, alta pianura meno lungo la costa, nel pomeriggio il tempo in genere sarà migliore. Tornano oggi e domani le giornate del FAI di primavera, giunte alla 33esima edizione. 12 comuni coinvolti in Friuli Venezia Giulia, con 20 aperture di luoghi solitamente non accessibili o poco conosciuti. Tra questi l'ex Palazzo dell'Oid Triestino, oggi sede della Presidenza della Regione in Piazza Unità a Trieste, Palazzo Attems Santa Croce a Gorizia, la Chiesa di San Martino a Socchieve, le mine di fortificazione veneziana e francesi a Palmanova e la stamperia d'arte al Bicocco a Udine. Ma sempre a Udine, nel capoluogo friulano, a Palazzo Mangilli del Torso, questa mattina uno spettacolo di danza degli studenti guide dell'Istituto Uccellis. C'è pioggia e c'è coda per entrare a Palazzo Antonini Mangilli del Torso a Udine, una delle 20 meraviglie aperte in regione tra oggi e domani per le giornate FAI di primavera. In un angolo le guide, ragazzi delle scuole superiori, ripassano la loro parte. Quanto vi siete preparati? È da un po', anche per fare abbiamo fatto il sopralluogo, quindi è da un po' che ormai sappiamo cosa dobbiamo fare. Chiara Bettuzzi, capodelegazione FAI di Udine. Dobbiamo assolutamente ringraziare tutti gli studenti e tutti i professori che si sono veramente dedicati a istruire questi ragazzi, che sono sempre delle spade, sono sempre molto bravi e siamo molto orgogliosi. Oggi nell'edificio secentesco ha sede il Centro Internazionale di Scienze Meccaniche, la più importante istituzione scientifica non universitaria del Friuli. Ma nel 1935 la sala dei divani, dove oggi danzano le studentesse dell'educandato Uccellis, immaginatevi un sontuoso ballo organizzato dal conte Enrico del Torso in onore del principe di Piemonte. Dal balcone della stanza a fianco si intravede la statua di Garibaldi. Il 1 marzo del 1867, in questo balcone, Giuseppe Garibaldi fece un discorso alla città di Udine e venne accolto da un popolo in festa. Il consiglio ai udinesi dell'eroe dei due mondi, invece di ricorrere alla violenza, dare un buon programma ai vostri rappresentanti che manderete in Parlamento. Un centinaio di volontari FAI attivi tra Socchieve, Cividale, Palmanova e Udine. Sguardi all'insù nella chiesetta di Santa Maria del Monte di Pietà in via Mercatovecchio per ammirare gli affreschi di Lucio Quaglio, pittore lombardo conteso dalle famiglie udinesi del tempo, Strassoldo, Porta, Deciani, Maniago e Antonini. Sorprendente. Anche questi rivestimenti di cuoio che sembrano di tessuto sono veramente strani. Non sono accessibili normalmente, ne bisogna approfittare oggi, sì. Anche sfidando le intemperie. Sono tutti al chiuso. Sì, ma bisogna muoversi a piedi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Sempre nella giornata del FAI, nel pomeriggio a Gorizia alle 16, riaprirà al pubblico anche il rinnovato parco Coronini-Kronberg al termine di un importante intervento di restauro e riqualificazione. Questa mattina c'è stata l'apertura riservata agli organi di informazione. Un giardino restituito alla città dopo una lunga chiusura durata 5 anni. Il parco Coronini-Kronberg di Gorizia, terminati i lavori di restauro, riapre al pubblico in una cerimonia di inaugurazione sotto la pioggia. Nel giro di presentazione sono state evidenziate le maggiori opere di intervento, con i nuovi alberi piantati e la volontà di ricreare il più possibile la forma originaria voluta all'epoca dal conte Coronini, mettendo così in risalto le geometrie che armonizzano le architetture storiche e il verde. Come ha spiegato il direttore della Fondazione Coronini-Kronberg, Claudio Polverino, il restauro è stato filologico e si è basato su uno studio di immagini d'epoca che, con una libera interpretazione, ha detto, hanno ripristinato l'ambiente iniziale, integrato però con elementi di modernità e interattivi per rendere più completa la fruizione del parco. Per il sindaco Ziberna, che è anche il presidente della Fondazione, si è trattato di recuperare un pezzo della storia della città di Gorizia che risulta ancora più importante nell'anno di Go 2025. Tra le ragioni della lunga chiusura va ricordata la tragedia della morte di Stefano Borges, il ragazzo 13enne morto nel luglio del 2020 cadendo nel pozzo del parco mentre partecipava all'attività del centro estivo. La triste vicenda ha portato per 4 anni al sequestro di un'area del parco. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo anni di attesa, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di alcuni soggetti privati contro la variante stradale di Rigolato. A darne notizia il vicepresidente del Consiglio regionale, Mazzolini, che ricorda come ciò permetta di sbloccare un'opera fondamentale per la viabilità della Val Degano. L'intervento prevede un tracciato di circa 2 chilometri con viadotti, rotatorie e soluzioni tecnologiche moderne per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza. Il progetto, originariamente finanziato con 9.300.000 euro grazie a un accordo Stato-Regione siglato nel 2019, ha subito nel frattempo un incremento dei costi fino a 15 milioni. A Sesto Arregana sono iniziati oggi i lavori di un convegno dedicato al tema dell'autismo, in particolare quelle persone che sono scomparse senza dare più notizie di sé. Federica Obizzi, presidente di Penelope Friuli Venezia Giulia, ci ha spiegato quali sono le problematiche specifiche, appunto nei casi di scomparsa, di persone con autismo. Perché un convegno su scomparse e autismo? Ogni anno Penelope Friuli Venezia Giulia sceglie un argomento da cui può derivare la scomparsa. La scomparsa di per sé è neutra, ciò che cambia è la causa. In questo caso qui abbiamo deciso di fare un approfondimento sull'autismo perché può capitare che una persona autistica si perda. In questo caso ci sono delle particolarità che vanno studiate ed approfondite sia in relazione al particolare modo di sentire di una persona autistica, sia per quanto riguarda la possibilità di prevenirla. Quali sono i problemi particolari che ci sono in questi casi? La sensibilità di una persona autistica la può portare a spaventarsi facilmente ed allontanarsi dalle persone invece di cercare aiuto nel momento in cui si perde. ed è proprio per questo che bisogna assolutamente creare un sistema di ricerche performante. Quali strumenti si possono mettere in campo? Normalmente si mettono in campo vari strumenti che vanno dalla ricerca a piedi alla ricerca con i droni e anche la ricerca a mezzo dell'unità cinofile. E per quest'ultimo punto di vista è importante sottolineare che ci sono delle tecniche particolari che consentono di non avvicinarsi con il cane alla persona, e questo fa sì che la persona non ne sia spaventata e non tenda ad allontanarsi mettendosi ulteriormente in pericolo. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Una crisi ipoglicemica, ha costretto giovedì sera il cantante Bobby Solo ad interrompere bruscamente, dopo meno di un'ora, il concerto che stava tenendo per festeggiare i suoi 80 anni al Teatro Capitol di Pordenone. Lo spettacolo è stato sospeso, ma l'interprete, indimenticato di brani come Una lacrima sul viso e Zingara, si è presto ripreso e con un video su Instagram ha tranquillizzato i suoi fans sulle condizioni di salute. «Ho sentito un sudore freddo e sono svenuto», ha scritto il cantante, «ma sono arrivati dei meravigliosi medici con l'ambulanza che hanno detto che il cuore era a posto. Il concerto a Pordenone sarà successivamente recuperato. Ma sentiamo la voce di Bobby Solo in questo estratto dal suo profilo social. Carissimi amici, lo zio Bobby. Allora, volevo tranquillizzarvi. Praticamente ho fatto 10 giorni di antibiotici. Ho preso per l'influenza 10 giorni e poi, prima di fare il concerto, per un giorno e mezzo non ho mangiato e non avevo fame. Allora, dopo 50 minuti che il pubblico era molto felice, facendo rock and roll, facendo blues e le mie canzoni, mi è venuto praticamente una ipoglicemia, cioè gli zuccheri nel corpo sono cascati e ho sentito un sudore freddo e sono svenuto. Ma sono arrivati dei meravigliosi medici con l'ambulanza, hanno detto che l'ossigeno era 99. La pressione era 120 e 70, il cuore era a posto e mi hanno detto: se lei non mangia per un giorno e mezzo e dopo che ha preso gli antibiotici avrà dei problemi e cascherà svenuto. Così è stato, però il pubblico era contento anche dei 50 minuti e rifaremo il concerto a Pordenone. Intanto vi canto un pezzettino. It's one for the money, two for the show. Really get ready and go, get it going. Don't you step over blue suede shoes. Well, you can do anything, lay hold of my blue suede shoes. Well, you'll be knocking me down, step on my face, make my name and belong to place. Do anything that you want to do. Come on, baby, lay off of my shoes. Don't you step over blue suede shoes. You can do it. Lay off my blue suede shoes. Blues and rock and roll forever. Ciao. Ciao Bobby Solo, una parola, un grande. E ieri sera invece al Teatro Verdi di Trieste c'è stata la prima dell'Olandese Volante di Wagner, pieno successo per cantanti e strumentisti, mentre il nuovo allestimento firmato dal regista tedesco Henning Brockhaus non ha convinto il pubblico. È il mare, anzi il freddo mare del nord, il vero protagonista dell'Olandese Volante di Wagner, andato in scena al Verdi di Trieste. Un mare personificato nell'allestimento di Henning Brockhaus da 4 danzatrici che ne incarnano il carattere sensuale, oscuro e misterioso. Su questo sfondo la vicenda dell'olandese condannato per l'eternità a vagare sulle onde finché non troverà redenzione nell'amore di una donna, ciò che accadrà quando Zenita, la giovane figlia di un comandante di vascello, abbandonerà tutto e si consegnerà insieme a lui alla morte in mezzo ai flutti, restituendogli la pace dopo essere stata affascinata dalla sua leggenda. Un impianto scenico, spiega Brockhaus, che è da interpretare come un sogno di Senta e che non è piaciuto ad una parte del pubblico della prima, che alla fine delle 2 ore e 20 di musica senza intervallo ha manifestato apertamente il suo dissenso nei confronti del regista tedesco, dissenso compensato dal successo pieno ottenuto dai musicisti, a partire da James Rutherford, solidissimo olandese, e da Elena Batukova Kerr, a suo agio in quello che è il primo grande ruolo femminile scritto da Wagner. I consensi maggiori sono però andati a Clay Healy nel ruolo di tenore vecchio stile di Eric, senza ovviamente dimenticare Albert Domen, grande voce wagneriana e vecchio amico del Verdi di Trieste, che era Daland, il padre di Senta. Impegno speciale per l'orchestra guidata da Enrico Calesso, a chi vi parla, è piaciuta soprattutto la prestazione degli archi, precisi nell'esecuzione delle figurazioni veloci che richiamano lo scorrere delle onde, la macchia di colore più caratteristica della partitura. E insieme al mare, protagonista il coro in grandissima evidenza, specialmente nella grande scena del terzo atto, dove l'equipaggio dell'olandese volante si rivela come un demoniaco gruppo di fantasmi che ha regalato l'emozione più forte della serata. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Un grande nome della musica internazionale conclude oggi la 31esima edizione del Festival Dedica, consacrato allo scrittore iraniano-olandese Kader Abdollah. Sarà infatti il pianista Ramin Barami a proporre un viaggio musicale che attraversa epoche, stili e culture, con un programma che unisce Bach, Mozart, Chopin, Rachmaninov, Bartok e Rohani, in un evento intitolato Tra Oriente e Occidente, al Teatro Verdi di Pordenone alle 20.45. E siamo allo sport, il calcio in Serie C, la Triestina sarà impegnata in trasferta oggi sul campo della Gianna Erminio a Gorgonzola. Tra gli Abbadati rientrerà Ionita, resteranno invece a casa Germano e Bianconi, colpito quest'ultimo dalla febbre. Calcio d'inizio alle 15. Il basket in Serie A per la 23esima giornata, Trieste, che ritrova dopo l'infortunio Denzel Valentine, ospita in casa una delle grandi del campionato, la Virtus Bologna, inizio del match alle 20. In A2 la Gestecco Cividale continua il suo tour de force ospitando al Pala Gestecco la formazione di Torino, inizio alle 20, domani impegno in trasferta per la capoclassifica a Udine sul parquet di Cremona alle 18. Domani sulla terza rete a diffusione nazionale andrà in onda la rubrica Est-Ovest curata dalla nostra redazione. Sentiamo gli argomenti che saranno proposti. La trattativa tra Putin e Trump per una tregua in Ucraina, con sullo sfondo la questione dello sfruttamento delle materie strategiche. Il carovita in Croazia, i consumatori boicottano le catene commerciali che hanno rincarato i prezzi dei generi di prima necessità. Orbán è il più deciso oppositore delle politiche sull'immigrazione di Bruxelles, ma l'Ungheria ospita moltissimi lavoratori asiatici. La scuola in Estonia, programmi, didattica e insegnamenti per portare i bambini nella natura e nella realtà digitale. Mezzo secolo fa, nel novembre del 1975, con gli accordi di Osimo, l'Italia e la Jugoslavia definirono i confini tra i due stati. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze, alle 8.50 andrà in onda la tradizionale rubrica Vita nei campi. Questo il sommario della puntata. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura al pericolo zecche in aumento anche per la gente dei campi. A seguire i rimandi letterari per un piatto di stagione a base di lidum, le erbe di primavera. Piantare alberi nella vigna fa bene alle viti e al vino e anche all'ambiente. Prima puntata dedicata al cotone, la pianta che sta vestendo l'umanità. E ancora, attenti alle esposizioni all'ossigeno nella conservazione dei vini, la biodiversità nella foresta di Pielungo, nella rubrica di alberi e boschi, in conclusione andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi, Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni altri appuntamenti di oggi. In scena questa sera il tradizionale concerto di primavera della Fondazione Luigi Bon, a esibirsi l'ensemble di 6 pianisti Piano Hesagon, che proporrà il progetto Dancing Piano su una scelta di composizioni accomunate dai ritmi di danza, dal 700 alla disco dance degli anni 70. Alle 20.30 al Teatro Maurensic di Felletto Umberto. Inizia questa sera il 29esimo Friuli Venezia Giulia International Music Meeting, che porta sul palcoscenico grandi nomi della musica e giovani promesse, che quest'anno è dedicato al tema dei riflessi. Bassi. Il concerto di apertura vedrà in scena il violoncellista Matteo Ronchini e la pianista Cecilia Novarino alle 20.45 a Palazzo Ragazzoni a Sacile. La Domus di Tito Macro ad Aquileia sarà la scenografia di Commensali di Aratria Galla, il secondo spettacolo del progetto Rivivere in Domus di Fondazione Aquileia, in cui la protagonista affronta gli equilibri di allora fra donna e uomo, inscenando i modus vivendi dell'antica Aquileia alle 19. Appuntamento dedicato ai bambini, alle famiglie, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in scena il Disney Galà, spettacolo musicale che farà riascoltare le colonne sonore più famose e amate dei film di Walt Disney alle 18. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 14.30. A tutti voi l'augurio di un buon sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.